Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e bentornati all'ascolto di Un abuso al giorno, la trasmissione che ogni giorno, appunto, da oltre un anno affronta temi legati ad abusi, violazioni dei diritti, soprusi, truffe, insomma tutto quanto ha sapore o odore di illegalità o di illiceità o comunque di ritardo nell'erogazione di quelli che sono diritti degli italiani. Allora, oggi ci occupiamo di un caso che abbiamo già trattato nel passato. Ricordate? Siamo a Bolotana, in provincia di Nuoro, e lì c'è un imprenditore lombardo che vorrebbe aprire un'impresa di sistemi refrigeranti. Lui è titolare della Ecofridge, solamente che la pratica inizia 10 anni fa, ma non è ancora giunta a conclusione. Ritardi gravissimi per i soliti intoppi della burocrazia. Pensate che questa impresa ad un certo punto non ha potuto decollare perché si è litigato, se non ricordo male, per circa 8 mesi su un palo della luce dell'Enel che doveva essere spostato un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più sopra, un po' più sotto. Sono cose che purtroppo accadono soltanto in Italia. Il problema qual è? È che il Ministero per lo Sviluppo Economico, se la pratica non giunge a conclusione entro il mese di settembre, quindi questo mese, revocherà i soldi che ha già deciso di erogare a questo imprenditore. Ed allora noi abbiamo con noi l'imprenditore in linea, Giuseppe Aloisi, al quale chiedo di correggere ciò in cui ho sbagliato nel mio racconto. Buongiorno a lei. Qualche piccola puntualizzazione. Prego. Per la rimozione del palo non ci sono voluti 8 mesi, ma bensì 30 mesi. Ah, ecco, bene, io sono fin troppo clemente con la burocrazia. Per quanto riguarda invece lo stato della revoca, l'azienda purtroppo al momento attuale è già revocata, quindi... Certo, questo infatti lo abbiamo detto. Infatti è una cosa che mi dispiace molto, in quanto dopo 10 anni io continuo a lavorare perché... credo delle eccellenti opportunità pure in un clima economico non certo favorevole a nessuna impresa, e purtroppo le cose dei giorni d'oggi sono ancora peggiorative. Esatto, allora io direi questo a Luisi, credo che non ci sia molto da aggiungere per il momento, se non che lei ha avuto il supporto e l'appoggio di tutti, comuni, provincia, contratto d'area, sindacati, Confindustria. Lei non vuole mollare, vuole creare posti di lavoro, ha già nel portafoglio delle commesse anche importanti dall'America. Fatto sta che i fondi sono stati revocati e se non ritorno entro il mese di settembre lei dovrà dire arrivederci alla Sardegna. Io ringrazio per aver accettato l'invito il dottor Giampiero Castano, che è il responsabile dell'area di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico. Buongiorno dottor Castano. Buongiorno. Allora, come stanno le cose? Come mai questi ritardi? Come mai 10 anni? A che punto è la pratica vista ovviamente dalla parte dello Stato, cioè del Ministero per lo Sviluppo Economico? Ma premesso che noi abbiamo degli obblighi che ci derivano dall'Unione Europea, voglio semplicemente dire che l'intervento nostro è a seguito di una segnalazione obbligatoria fatta dall'autorità locale, che è la provincia di Nuoro, con 2 atti consecutivi che confermavano che l'attività non era iniziata. A fronte di questo, ed è la provincia di Nuoro, non siamo mica noi che hanno detto queste cose, a fronte di questo e dopo vari solleciti per accertarci che la cosa effettivamente stava così, a luglio dell'anno scorso è stata attivata la procedura per il recupero di quattrini già erogati, peraltro. Certo. Non stiamo parlando di soldi non erogati, di soldi già erogati e che lo Stato obbligatoriamente deve recuperare. Deve recuperare. Alla luce di altre segnalazioni sollecitate anche da noi e dall'imprenditore che ci sono pervenute della provincia di Nuoro, stiamo riesaminando la pratica, che non è semplicissima, perché capisce bene che a fronte di atti precisi da parte delle autorità locali noi non possiamo fare quel che vogliamo. Abbiamo assegnato ad un nostro esperto legale esterno dal Ministero di dirci se esistono gli estremi per una revoca della revoca. Credo che nelle prossime settimane avremo questo parere e poi decideremo come procedere. Ecco, io intanto... Quindi non si è mosso il Ministero per conto proprio, si è mosso su segnalazione delle autorità locali. Io la ringrazio, dottor Castano, ovviamente qui non siamo in trasmissione per criminalizzare Tizio Caio Sempronio, però c'è un dato di fatto che in Italia c'è un gioco straordinario dello scaricabarile, però rimane un punto oggettivo. Un imprenditore che da 10 anni chiede di entrare in Sardegna a operare e creare occupazione. Ora, sicuramente ci saranno stati degli atti legittimi e che hanno seguito un'altra fila, io non ho motivo di dubitarne, però come cittadino e come giornalista guardo ad un fatto che purtroppo io credo accada soltanto in Italia, cioè 10 anni per aprire un'impresa, 30 mesi per spostare un palo dell'Enel. Mi sembra veramente... di trovarmi di fronte ad una follia con la fame dei posti di lavoro che c'è soprattutto in Sardegna. Però lei ha chiamato in causa la provincia di Nuoro e non è stato un chiamare in causa da poco. Noi abbiamo collegato Mario Moro, che è l'assessore all'industria della provincia di Nuoro. Il responsabile del contratto d'area sarebbe il presidente della provincia, ma chiaramente la delega è al ministro all'assessore all'industria. Allora, Moro, buongiorno e benvenuto in trasmissione. Buongiorno. Allora, la colpa è vostra dunque. Puoi immaginare quanto noi ci teniamo a chiudere o a mettere in difficoltà le poche aziende che abbiamo nel territorio. Questa è una azienda che sin dall'inizio ha dimostrato certi interessi anche dal punto di vista industriale. Ora è chiaro che il contratto d'aria fa capo a una legge e che impone regole, che impone tempi, rispetto quindi di quelle leggi che in tutta Italia sono in vigore per quanto riguarda i contratti d'area. Ecco, però il dottor Castano non l'ha chiamata, non lei, ma la provincia pesantemente in causa, dicendo siete stati voi che ci avete detto che l'attività di Aloisi non era partita. Ma questo è vero o no? O comunque come si possono accorciare questi tempi? È possibile che non basti per esempio una rapida aggiornamento dello stato dell'opera e dire no, guardate, attenzione, la colpa non è di Aloisi ma è dell'Enel che ci ha messo, dico per dire, 30 mesi per togliere un palo. Insomma, non c'è un modo per abbreviare le procedure invece di aspettare 10 anni? Certo che tutto è possibile. Il problema è che se torniamo indietro nel tempo, risulta nel dicembre 2004 una dichiarazione dell'impresa che entrava in funzione. E forse questo è stato l'elemento che poi ha determinato tutte le conseguenze. Che noi stiamo assistendo, non risultava che a quella data fosse in condizione di entrare in funzione. Dai monitoraggi fatti a suo tempo anche dall'ente istruttore nazionale che erano Progetti e Finanze. Ecco, io la interromperei un attimo, Assessore Moro, perché vorrei ritornare, avendo capito una cosa, e credo che con me Castano concorderà, che la provincia ce la sta mettendo tutta per far partire questa attività. Io chiedo a Castano, ma il Ministero nell'esaminare queste pratiche, per esempio, non concede una sospensione o comunque non prende in considerazione dei fatti paradossali come quello del palo della luce, ad esempio, che è chiaro che mettono in incredibile difficoltà? Sì, a parte che il palo della luce non dipende da noi. No, assolutamente, per carità, certo. L'esempio preso però non mi pare il più calzante. Qui ci troviamo di fronte ad un'azienda che ha impiegato 10 anni, non per colpa sua, per far decollare un investimento. Noi peraltro abbiamo anticipato i quattrini, un terzo dei soldi sono già stati anticipati, sono stati erogati all'imprenditore. E semplicemente abbiamo verificato nel 2007 se a fronte di soldi erogati l'impresa stava iniziando. Comunque voi ce la metterete tutta, suppongo, dalle sue parole, per portare ad una conclusione positiva questa pratica. Assolutamente, noi a questo punto stiamo cercando le strade, le scorciatoie per risolvere questo problema in modo positivo. Bene, questo... Noi abbiamo a cuore il problema dell'ingegnere Aloisi, che sa benissimo che lo stiamo seguendo passo a passo per tentare di evitare che un imprenditore lasci la Sardegna. Assolutamente, no, di questo la ringraziamo. Ovviamente non mettevamo assolutamente in dubbio l'impegno del Ministero, perché qui purtroppo la situazione economica è oggettiva in Italia e quindi in tutte le regioni è il momento di cercare di mettercela tutta per far partire quelle poche attività che oggi vogliono decollare. Allora io ringrazio ovviamente Cassano del suo impegno e gli diamo appuntamento più in là per vedere come si si è conclusa questa e magari anche altre pratiche grazie all'assessore Moro, vorrei lasciare l'ultima parola all'imprenditore Aloisi. A questo punto mi pare che qualche fondo di speranza ci sia, qualche parola positiva sia stata spesa. Lascio a lei un commento finale. Molto brevemente, io conosco entrambi gli interlocutori di cui ho grandissima stima e sono sicuro che abbiano tutte le intenzioni di risolvere assieme a me questa angosciosa questione. Se dovessi fare un rimprovero lo farei alle procedure che non tengono conto a volte, magari un po' perché sono datate anche se stesse, delle realtà odierne. Ovvero un'impresa vive anche nel tempo in cui le cose sono fatte. Assolutamente, io la ringrazio di queste parole, ingegnere Aloisi. È chiaro che la clessidra, diciamo così, della burocrazia e delle norme italiane purtroppo non è al passo con i tempi, con il cronometro dell'economia, dove i tempi sono veramente scanditi e dettati da rapidità e colpi di acceleratore. Grazie a tutti i nostri ospiti, in regia Filippo Aureggi e in studio alla Laura Faggini. Vi ricordo che potete dialogare con me in due modi. Innanzitutto mandando una mail a unabusoalgiorno@radio24.it segnalando casi. Vi prego, casi che possono interessare una platea di persone, non casi personali. Di quelli ce ne arrivano a centinaia, ma su quelli non possiamo fare nulla. E poi l'altro modo, il blog che ho sul home page del Sole 24 Ore, giornale del quale sono inviato, il mio blog è http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Una buona giornata a tutti.